Sempre con grande gioia io mi accingo a condividere con voi l'insegnamento del Signore, sia perché mi prende la parola di Dio ed è maestra lei per me, sia perché ho gusto di trasmettere a voi cristiani un insegnamento che normalmente il mondo non dà. È 50 anni che io predico questo Vangelo, eppure ieri mentre lo meditavo per preparare questa predica mi è venuto uno spunto nuovo che non mi è mai venuto e che poi dopo, tra poco, condividerò con voi. Anche se sento sempre dentro il cuore un po' di tristezza, perché c'è tale abbondanza nella prima lettura, nella seconda, nel Vangelo, e io sono costretto a darvi solamente una piccola parte, come se fosse apparecchiato un pranzo nuziale e io vi devo dare solamente una portata. In particolare mi sento a disagio coi bambini, perché mi sarebbe piaciuto commentare la prima lettura che riporta i 10 comandamenti. Dati in modo originale. Pensate che i 10 comandamenti appunto sono 10 e questa lettura impiega 3/4 quasi dell'esposizione a spiegare i primi tre. E per gli altri corre via, corre via, corre via, come se non uccidere, non dire falsa testimonianza, come se fossero poco importanti. Dico che strano. Per noi è esattamente l'opposto. Se chiedo a qualcuno un comandamento, mi dice non uccidere, non rubare. E questo è quello che ha nel cuore. Ma non mi dice non avrai altro Dio all'infuori di me, non nominare il nome di Dio invano, ricordati di santificare le feste. In particolare, siccome porterete a casa il foglietto che è usato solo da voi, per questa pandemia ognuno si porta a casa quello che tocca, insomma. Vi invito a notare quante parole spende per parlare del terzo comandamento di ricordati di santificare le feste. Io invece volevo di questo grande brano evangelico della Cananea, della Samaritana, spiegarvi un particolare, anche se mi ricordo che in 50 anni ho toccato tanti aspetti, bellissimi tutti. Mi colpiva il fatto che questi ascoltatori, la Samaritana e poi i discepoli, non capiscono bene il senso delle parole di Gesù. Gesù parla di acqua e questa donna o maliziosamente o ingenuamente travisa il suo discorso. Tu parli di quest'acqua che sazia ogni sete. Bene, dalla anche a me così che non verrò più a far la fatica di attingere dal pozzo. Allora Gesù è costretto a spiegare che si tratta di un'altra acqua. Arrivano i suoi discepoli che erano andati per una commissione in paese. Dicono: Maestro, è mezzogiorno, mangia. Io ho un altro cibo che devo mangiare. Ah sì? Qualcuno ti ha portato da mangiare? E anche loro non capiscono. Quella non capisce il bere, l'acqua, questi non capiscono il mangiare, il cibo. Allora mi sono interrogato mentre riflettevo su questo Vangelo e mi sono detto, forse capita anche a noi oggigiorno che fraintendiamo le parole di Gesù, che Gesù ci dà un insegnamento. E invece noi quando ci rivolgiamo a Lui chiedendo, chiediamo tutt'altro. E mi è venuta questa riflessione che vi condivido, casomai potesse servire anche a voi. Mi sembra che le richieste del Padre nostro siano totalmente altre dalle richieste che noi facciamo a Dio. Il Padre nostro è formato di 7 domande in cui noi ci rivolgiamo a Dio chiedendo: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, dacci il pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non ci abbandonare alla tentazione, liberaci dal maligno. Gesù ci dice: quando vi rivolgete al Padre, chiedete queste cose. Ora, per quanto ho esperienza, mi sembra che normalmente le preghiere del popolo cristiano, non voglio offendere nessuno, ma per l'esperienza di 50 anni che ho, mi sembra che tocchino altre note. Signore, guarda mio figlio. Signore, in casa nostra siamo in difficoltà con la casa. Non lasciarci dormire sotto i ponti. Don, preghi anche lei con noi perché mio marito rischia il posto di lavoro. Guardi, Don, ci metta una preghiera perché ho mio papà ammalato e temo che non ce la faccia. Oppure vorrei venire a parlare con lei, Don, con mia sorella, perché non andiamo mica d'accordo, no? Insomma, mi sembra che in generale le domande di grazie che noi rivolgiamo a Dio non siano affatto sulla lunghezza d'onda del Vangelo, sulla lunghezza d'onda del Padre nostro. Ora, siamo come questa donna e come questi discepoli che chiedono l'acqua che disseta, che parlano di pane che sfama, e anche noi facciamo bene a chiedere al Signore il lavoro, la casa, la salute, i figli, la pace tra i familiari. Facciamo molto bene, solo che Gesù ci ha insegnato anche dell'altro. Quanto dovremmo chiedere, Signore, che il tuo nome sia santificato in casa mia? Quanti non vanno a messa dei miei familiari? Che venga il tuo regno in questo mondo, Signore, sembra una giungla o sembra siamo in una guerra, venga il tuo regno. Io non so, amici, se voi, ma io tutti i giorni prego per la sconfitta della pandemia. Non mi limito a guardare il colore delle regioni, ma prego perché anche in Africa ho sentito che è arrivato un primo stock di vaccini in un certo paese africano. Ah sì? 37 milioni di abitanti, sono arrivati 600.000 vaccini. E sento che uno Stato europeo di meno di 100 milioni ne ha ordinati 200 milioni. Oh Signore, che venga il tuo regno in questo mondo, che sia fatta la tua volontà e non invece tutta quella somma di sfracelli che succedono in giro. Dacci il pane di ogni giorno. Certamente il lavoro, la salute per guadagnarci il pane di farina, ma anche il pane della volontà di Dio, dice Gesù, mio cibo è far la volontà del Padre mio. Perdona a noi i nostri peccati come noi qualche volta riusciamo a perdonarli agli altri. No, Signore, non far così, per favore. Tu perdona a noi sempre. Non abbandonarci alla tentazione, anche quando abbiamo voglia di scorrere le cose pornografiche sul cellulare o sul computer. Vengono fuori da sole. Non salvaci dal maligno. Questo male è il maligno che insidia la nostra vita. E poi potremo chiedere anche tutto il resto, amici. Il Vangelo è una miniera. Io in 50 anni che lo predico, solo quest'anno ho avuto questa intuizione che le nostre preghiere possano non travisare gli insegnamenti di Gesù. E se lui dice acqua, che sia anche l'acqua per l'anima. E se lui dice di pane, che sia anche il nutrimento per la nostra vita spirituale, e così sia.